cosa, quindi lui ci fida molto di me, ma non solo lui, anche quando vengo da Radio è proprio a posto. Sono a posto, te lo dico, guarda, a voi c'è questo difetto, se ti piace così, se no passare indietro, ma tutti nudi. Sì, se non hai fatto bene tu la radio, sei abbastanza pignolo, quando c'è un problema lo mandi subito a riparare. E poi già sei venuto tutto qua, quindi io tengo tutto in ordine, bello, pulito, ordinato, sto sempre controllando, guarda, di questo spezzone me ne sono accorto perché è collegato al commutatore all'AT250, dalla Kenwood, quindi è molto sensibile, e ho visto che si muoveva lo strumento, deve rimanere fisso, cioè ho toccato il PL e tornava fisso, aia, ho tagliato e ho fatto il PL nuovo. Purtroppo può andare in corto un PL, non è quello il problema, però te ne devi accorgere, se c'è la strumentazione te ne accorgi. Sì, sì, io intanto nel senso gli do uno sguardo, perché a volte anche questo TM1000, intanto secondo come muovi dietro, non so se dipende dal capo o dalle saldature dei maschi, dai, del TM1000. C'è qualche saldatura fredda, ci deve essere, che tocca, non tocca, e a volte sembra che si abbassi di segnale, di potenza, e salgono le stazionarie di conseguenza, dai. Sì, sì, sì, è così, è così. Poi vabbè, adesso quando rientriamo un po' che si rilassa, insomma ci riprendiamo un po', ci facciamo un'altra uscita fra. Quando volete? Possiamo anche sfruttare ancora le giornate belle e farci qualche altra vestita, se no ci andiamo fuori. Mi sa, la settimana prossima ho messo 36 gradi d'ora, mamma mia. D'ora? Vabbè, non ce lo puoi fare. Io sono convinto che quest'anno fa un inverno di merda. Freddo? Come sbaglio che uscito? Freddo o caldo? No, no, freddo, perché è iniziato troppo presto il caldo. Io spero che non faccia danno come a Cagliari, così. Mamma mia, sono queste cose che sto temendo, io. Già visto dove sono io. Ci fa di qualche bomba là, qualche diluvio, ti butta vita col cancello. Ma che sei in alto tu, quelli che sono in basso devono stare preoccupati. Vabbè, ma io mi preoccupo sempre perché c'è in discesione, no? Vabbè, visto dove mettiamo le macchine, è sempre pericoloso, è sempre pericoloso, non ci arriva dentro da me, scende giù nella valle l'acqua, però cazzo, il danno che fa l'acqua non lo fa manco il maiale. Sì, io mi alghiero che sono a piano terra, a volte è un po'. Quando piove tantissimo scendo a dare uno sguardo, però per adesso è andata sempre bene. Perché abbiamo poi nel piazzale abbiamo una cosa enorme, hanno fatto poi la pendenza quasi verso il palazzo, invece di farla verso il centro almeno e raccogliere le acque al centro, no, hanno fatto la raccolta delle acque vicino al palazzo. Io lo conosco, non ce l'ho lavorato io, non ero fontaniere a Montagnese, quindi lo conosco bene, è fatto la cazzo di piano. Non c'è drenaggio dell'acqua nelle strade, i tombini sono tutti fatti male, capito, non c'è flusso, perché se no andrebbe bene, che tu mai visto il Lido quando piove più la vacca va passata, perché il dislivello è fatto tutto in pendenza al contrario, e i pozzetti non drenano. Hanno fatto una diga lì, hanno fatto. No, no, a casa proprio ha sbagliato l'impresario. Ha fatto un piazzale enorme, con la pendenza sbagliata. Io l'avrei fatto verso metà del piazzale, che sono di larghezza, saranno minimo 20 metri di piazzale, con l'auto bloccante. E le griglie io di raccolta le avrei fatte al centro. E invece no, sono fatte a un metro e mezzo dal portone di giù, però, del giardino. Non hai visto il giardino che c'ho io come è fatto? Nei muri ci sono i furi con i tubi e c'è una pendenza dalla veranda arrivare al muro di recinzione e ci sono 30 cm di pendenza. Quindi ma poi assorbe tanti cazzo, l'altro giorno che ha piovuto un bel. Era, si vedeva l'acqua sopra l'erbetta, sopra il prato, poco che è rimasto. E 10 minuti che ha smesso non c'era più acqua, nulla, si era portata via tutta. Vuol dire che c'è un bel drenaggio. Dove noi abbiamo tutto autobloccante lì, non so, sì, un po' assorbe, non so quanto possa. Dopo un po' quello qui inizia a buttare tutto sul canale di scolo, mettono quattro foglie, le griglie si tappano, io intanto me le pulisco, infatti almeno le mie vicino a casa me le tengo pulite le griglie. Sì, ma certo, quello è la cosa principale, tenere sempre pulite le latture, perché se non pulisci quelle è un casino. Sai, si accumulano le foglie, si accumula la terra, eccetera, e vanno pulite, invece non puliscono niente. Però quelle tocca a noi perché sono private, anzi, paghiamo anche, c'è il giardiniere lì che pulisce tutto, dovrebbe pulire anche le caritoie, come dici tu, però... quest'anno addirittura abbiamo difficoltà a trovare un giardiniere, tutti vogliono lavorare in nero, invece noi dobbiamo, ci serve la fattura, capito? Perché c'è l'amministratore. Sì, già ce n'è, qualche amico ce l'ho che è iscritto a fattura ed è anche molto bravo, l'ha fatto prendere un paio di condomini anche a Sassi, ma già ne parliamo di persona. Sì, io ce l'avevo come ordine di servizio. Settimanalmente pulizie e caratterie negli impianti di potabilizzazione e depurazione. È molto importante perché quando piove molto il depuratore non ce la fa a incubare l'acqua già della città o del paese, perché io qui gestivo paesi, del paese. In più l'acqua piova, quindi non ce la fa a gestirlo e tracima, no? Per non tracimare ci sono le caratoie pulite, quando l'acqua tracima le sedimentatori a sfioro se ne va a mare, capito? Ma se tu non pulisci quelle, cazzo ti vado un casino di Gesù Cristo, quindi è importante avere sempre tutta la città o il paese, i pozzetti del flusso dell'acqua piovana vanno puliti, invece non puliscono mai niente. Ma poi ce l'abbiamo col giardino sempre in facciata lì, che praticamente hanno fatto la recinzione in cemento, in blocchi in cemento, però non c'è nessuno scolo di acqua, quindi diventa una piscina. Ma è possibile? Ma chi le ha fatti questi lavori? Fateli almeno un taglio, un'uscita, un foro, modo che l'acqua in eccesso vada fuori dalle aiuole. Nuda, è ancora così. Lo so, aspetta che commuto al capo un po' là, non avevo usato per niente, questo lo stavo provando, ve lo terrò bene, quindi il PL è a posto, tutto a posto, aspetta che commuto. Io provo a abbassare. Ora, non ti sento bene lo stesso, tu mi senti, sì? Ora, ti senti? Alla grande, tu mi senti? Sì, no, ho abbassato. Aspetta che rimetto. Segnale trasmissione, TX. Ho abbassato di moto la potenza, tutto, adesso sono con 4. No, va bene, Santiago 7 sta arrivando, se no il tuo segnale è agganciato 9,5. Io sono con 22 watt e 50 modulati. Adesso sei 5 qua, che dovrebbe essere 7-8 lo stesso, il segnale, forse anche di più. Di uno smith diciamo normale. E già va bene, già. Ci facciamo sentire lo stesso, non c'è problema. Questa è bella, la radio è bella questa, bella corposa, mi piace molto. E questo è il K, quello che avevi visto, questo è il 140. Con l'MC60. Sì, sempre. Io sono amante di questi microfoni già dal 1987. No, bene. Dei picchi di modulazione, una potente. Ottima radio. Poi questi sono dei muletti, no? Questo era il mio, tra virgolette mi pare, no? Questo l'avevo venduto 6 anni fa ad una persona, l'ho usato 3-4 volte, l'ho messo nell'armadio, poi gli è venuto in testa di toglierlo e ha visto che c'era tutto azzerato, praticamente la batteria si era esaurita, la batteria delle memorie, quindi mi ha telefonato se gliela cambiavo, e vabbè, non ne ho mai fatto porta, ma quindi ho chiamato carissimi, come devo fare per cambiare questa batteria? Stacca lì, fa così, l'ho cambiata, l'ho rimemorizzata, tutta, l'ho telefonata, come che la radio è pronta, vieni a prendere. Non ha chi vende, ma no, perché non è di qua, di paesi. Ma tu no, vendimela, no, non ne voglio più, vendimela. Che te la vendo io? Asco, fa una cosa, faccia prendere il cellulare, me la tengo io, va, me la sono tenuta. No, no, buona, buona. Era saldata la, la batteria, diciamo, la, la batteria, oppure proprio va in cazzo, era? No, era saldata, per quello avevo paura, capito? Invece ce l'ho fatta, però adesso praticamente tramite questo mio amico gli ho messo il portabatteria, quindi cosa ho fatto? Anziché saldare la batteria ho saldato i due poli del portabatteria e la batteria l'ho infilata dentro. Quando si riscarica fra anni non fai altro che senza fare niente, come la cambi alla batteria all'orologio, la togli e metti quella nuova, un secondo. Hai fatto bene, quindi non stai lì a saldare, avete lì a rischiare, così è semplicissimo. Sì, una modifica che c'è, capito? Ma è lui, guarda che c'è questa modifica, te la mando, ho preso il portabatterie, anzi me l'ha dato lui veramente, ho dato il portabatterie, e poi l'ho ripreso, e l'ho fatto come mi ha detto lui, capito? E adesso è facile, perché quando si scarica non c'è bisogno di portarla a me, la apri, togli il coperchio, allora eccola qua, la sfili e le metti quella nuova. Che batteria monta? Quella degli orologi, come quella delle quelle rotonde da 3 volts. Ma non ti ricordi la sigla? 2630? Mi pare sia un 2630, sì, non vorrei sbagliare, quelle rotonde piatte. Sì, sono le più usate quelle. Sì, l'ho presa anche oggi, anzi, ce l'avevo, invece l'ho presa perché anche il peso, per tenerci sotto controllo, con Anna era scarico, no? È digitale, quindi non si vedeva più, allora gli ho messo la batteria, io sono a posto, invece Anna mia è sempre a tenere il bicio. E io adesso non mi sono pesato, un po' di pancia già ce l'ho, forse un po' di birra, le tazze, qualche bicchiere di vino, siamo così, sono tutte calorie, anche se bruciavamo in bicicletta, una sorta, qualcosa mi è rimasta. Anche io fra, però ne stavo approfittando un po' troppo, anche la sera con l'aria ci sedevamo fuori, andrettina, patatina, noccioline, ho mollato tutto la prima di fare agosto. 4-5 kg ho persi, la verità, mi sono sgonfiato i liquidi, però chiaramente se poi ci ritorni te la vedi in culo. Adesso ero da sabato, mi sembra, sabato ero di compleanno, sabato lì a Ploaghe, hanno festa di 50 anni, e poi da sabato notte fino a oggi, mi sembra, non avevo toccato nulla. Oggi c'erano degli amici di Macomer, dei colleghi di Macomer, quindi gli ho offerto un paio di birre, un po' di patatine, poi lui ci ha dato quella tipa del bar lì alla lavanderia. E quindi oggi un paio di birre ce l'abbiamo bevute. Sì, cazzo, non facciamo altro, dai, io non c'ho altri inviti, se mi bevo una birretta si abbiglia in culo, il mio problema sono le sigarette che non riesco a mollarle, sono seguito sempre a Bea, con Anna, ma purtroppo è 40 anni che fumo, cosa devo fare? Ma è più forte di te, no, so, quindi tu se vinci è tutto di guadagnato, in tutti i sensi proprio, sia in salute che a livello economico, però... non sono tutti che riescono così facilmente a mollarla, ma la giusti. Sì, guarda, io c'ho di vizio che se sto male riesco a stare anche una settimana senza. Ma cazzo, ma come mi riprendo? Guarda, allucinante, no, non c'è niente da fare. Non riesco. Non ci riesco. Cerco di fumare di meno, di fare, però dura poco la questione, capito? Quando stai fumando perché? Un pacchetto di camera ce ne va. Non è poco. E anche nel nostro gruppo di Alghero due donne fumano. Il resto non fuma nessuno. Due sorelle, dai, fumano. Non tantissimo, però qualcuna se la tira, no? Lo so. Io cerco a volte 15, 16, però non c'è da fare, sempre un pacchetto se ne va, ne avanzano 3, 4 la mattina, dopo il caffè me le ciullo una dietro l'altra. Poi si vengono automatici ormai tutti i movimenti, anche il collega, quello di Sorso, lo stesso, aveva smesso, da voi piano piano l'avete parato, adesso la sta recuperando quegli anni che aveva smesso. Sì, perché capita così, non ti dice, no, ho smesso cosa, cioè, ce le butti del tutto, perché io ho un sacco di amici, conoscenti, amici, e cazzo non ci vuole di più, no, no, ho smesso. Ma ci danno sigarette. Che tu me lo avevi smesso? O hai smesso di comprarle? No, questo se le compra. All'inizio mi sono accorto, perché fumava tipo di nascosto, quando uno lo nasconde alla famiglia o alla moglie. E mi sentivo l'odore quando arrivava la mattina presto, ma no, non sto fumando, deve essere via al bar, invece piano, riesci da pizza. Ehi, proprio quella sigaretta, puzzinosa, io cerco sempre di evitare, capito, non sono di quelli che ma c'è pressione, ti si avvicina, cazzo, non puoi stare vicino, mamma mia, no, non mi piace neanche a me a volte, la verità, però è così, quando non c'è il vizio di fumare, non ve la va, e io da mamma mia ho imparato, capito, perché mamma fumava quando eravamo piccoli. Che cos'è la sigaretta, ma cos'è, non è? Proviamo. Qualche prima gliela fottevo di Muratti Ambassador e da lì ho preso il vizio di fumare, capito? Avevo 15 anni, 16 anni quando ho iniziato a fumare, che ne ho 62 fra, non ho mai smesso. E grazie a Dio però quando faccio le visite sembra che sia tutto a posto, fiato ne ho abbastanza, non è che me la fanno così facilmente, attenzione, però è chiaro che internamente oramai è tutto consumato, non c'è più nulla. Beh, che cosa? Non l'ha detto, dai. Mi ricordo un tipo era, dove mi pare in Tunisia. Fumava non so da quanti anni, lui c'era forse anche più di 100 anni questo qua, non so se sia una leggenda o sia una storia vera. E i figli sono morti, ma sono morti dal fumo passivo, capito? Del fumo che produceva il padre. E cosa le fumava sopra, la Madonna. E così, non so se lo diciamo per battuta o se era veramente così. Perché i figli erano grandi, cioè sono molti grandi anche loro, Lui aveva più di 100 anni, quindi magari i figli poteva averne 80 magari, se non di più. E comunque dai. Invece, sì, anch'io mi ricordo, da piccolo mia madre qualcuna se la fumava, qualcuna così dopo pranzo. Mio padre mi sembra aveva già smesso invece di fumare. Poi facciamo questo viaggio in Germania, riprende a fumare mio padre, le HB, le tedesche, sigarette dappertutto. Su HP, minchia che le HP, cos'era giù? Sì, HB era un pacchetto giallino, HB proprio, per fumare mia zia di allora, la seconda moglie di mio zio, fatta di mia madre, là. E da lì si è preso di nuovo il vizio, ha fumato per altri 25 anni, poi ha smesso di nuovo. Addirittura. Grazie a Dio. Anzi, quando ho iniziato a suonare lo strumento, il clarino, ha ripreso a funzionare un polmone, perché mio padre era con un polmone solo, perché ce l'aveva collassato. E oggi ha di nuovo due polmoni, è un miracolo quasi, grazie allo strumento musicale. Ecco, proprio grazie a quello. Sì, praticamente dici, immagini tu il polmone come un palloncino secco, chiuso, con lo sforzo personale si è aperto questo palloncino e ha ripreso a prendere aria. E gli aveva formato un po' di liquido nel polmone, nell'asse si vedeva. E qui a Sassari gli volevano togliere due costole e toglierli tutto, aprirlo e togliergli il polmone. E invece mio zio che a Gorizia da fare cosa, fatti una visita qua che c'è un bravo pneumologo. E Miguel gli ha detto guarda che questo è quasi un miracolo, sia tranquillo, le diamo una ginnastica da fare e lei è a posto. E così è stato. Quindi è andato ora. Ma è continuato a fumare, no? No, aveva già smesso, aveva già smesso da tanti anni. Stava solo suonando lo strumento con noi, con un maestro di Sassari. Vabbè. Dai, Vracoli, io ti saluto, sono già le 10 e vado a vedermi un po' di TV. Ero qua, ti ripeto, in stanza, perché stavo finendo questi cavetti al Saturn. Se l'ho messo a posto, tutto il tempo l'abbiamo provato. Quindi se lo devo usare, non ho problemi. Saluto Anna, da Carletto, e ci aggiorniamo, ok? Un saluto anche da parte di Anna e di Laria, ok? Senz'altro, ricambiato da parte nostra, da parte mia soprattutto. Un abbraccio a te, a Ilaria e a Dai, e anche a Birillo, al cane. a Filippo, c'è Birillo. Ehi, no, è a posto, Birillo è a posto. Ehi, ci assomiglia a un Birillo che canta il grasso, che è un piccoglione. Ciao Fra, un abbraccio grande, dai, ci aggiorniamo e poi già ci organizziamo. Ciao, ti saluto, saluto anche a tutti quelli che sono in ascolto. Buonanotte a tutti, ciao ciao. Un abbraccio ricambiato, buonanotte a tutti, ciao ciao.